L'articolo parla sostanzialmente di alcuni aspetti della jihad, non e spiega sostanzialmente cosa è in realtà. Dunque è un punto di vista quell'articolo, ma non è in realtà ciò che dice il Corano. Tanto che l'articolo riporta, per esempio, per quanto riguarda jihad e nafs, alcuni detti del profeta che nel gergo islamico e coranico vengono chiamati hadith, i racconti delle cose che aveva detto il profeta, dunque in sostanza è una storia orale. Dopodiché viene nell'articolo diviso tutto il mondo in tre categorie, musulmani, non musulmani e coloro che sono contro i musulmani. In realtà viene omesso una categoria che è categoria dei giusti, che nel Corano sia il profeta sia il Corano stesso danno molto peso a questa categoria dei giusti, che possiamo dire che sono i senza Dio sostanzialmente, e della quale non parla assolutamente l'articolo. Jihad in generale è un dei principi di conduzione naturale del musulmano, dunque è una necessità che spesso viene espresso dal Corano come dottrina, e proprio per questo l'Islam viene considerato una religione di lotta. Religione di lotta certamente, ma per difendere ideali dell'Islam, ciò che nell'articolo ancora non viene assolutamente menzionato. La lotta viene considerato, tanto che anche nell'articolo viene detto, il primo jihad è jihad nafs, cioè contro l'egoismo, contro l'ego della persona. Mi viene in mente ciò che diceva un grande rivoluzionario, che era Ernesto Che Guevara, che diceva: la più grande rivoluzione la si compie dentro se stessi. Dunque questo tipo di jihad, che è la più importante, invece nell'articolo viene messo in un secondo piano. Perché? Perché spesso e volentieri nell'articolo viene menzionato la guerra contro i non fedeli o contro i nemici dell'Islam, che sostanzialmente jihad non è fatta per questo, è fatta anche per difesa degli ideali dell'Islam, ma non solo per questo. Dunque, chi fa il jihad, che viene detto mujahed, normalmente e soprattutto è colui che vince il suo egoismo. Vince il suo egoismo addirittura con il martirio e con altruismo. Dunque, può fare anche il jihad insieme ai giusti, cioè per la giustizia e uguaglianza sociale, che sono dei punti fondamentali del Corano e dell'Islam. Ali Gaderi, reporter associati per Amisnet.